Paesaggi da ascoltare. Voci, suoni e storie dalle terre trentine. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Sara Maino. Gentili ascoltatrici ed ascoltatori, buon pomeriggio. Siamo approdati alla 10ª puntata di questa serie dedicata all'ascolto di storie, suoni e voci che abitano i nostri paesaggi. Ci trasferiamo oggi dal Lago di Garda all'Alta Valla Garina, nella bella piana ondulata che da Volano prosegue fino a Cagliano e Besenello. Un luogo a me particolarmente caro. È proprio qui che ho iniziato una serie di ricerche tra la gente sulla recente memoria del castello di Beseno, lo splendido maniero che domina questo paesaggio, lavorando al progetto Porto Beseno. Ma che cos'è Porto Beseno? È un nome inventato, ma sottende un progetto culturale avviato da Davide Ondertoller con la mia collaborazione nel 2005. Insieme curiamo ricerche sul territorio per conservare le memorie delle persone e dei luoghi. Negli ultimi anni lavoriamo anche con le bambine e i bambini delle scuole primarie di Volano, Cagliano e Besenello per narrare un territorio attraverso la memoria, i suoni e la creatività. Ci occupiamo infatti anche dei suoni della valle. L'ascolto dei paesaggi sonori è una passione che ci accomuna e la riteniamo una pratica importante nell'ambito educativo. Ascoltare i suoni dell'ambiente ci mette in relazione con il luogo in cui viviamo, ma anche con le nostre emozioni. Delle uspe. Chi ha sentito qualcos'altro? Io. Il suono della cosa, della, come si dice, della gallina ed un camion che stava scaricando. Il mio respiro. Il rumore del vento. Abbiamo chiesto a diversi artisti di interpretare questi suoni e le storie che abbiamo raccolto per riflettere continuamente sul paesaggio e sull'ambiente in cui viviamo. Porto Beseno, infatti, è anche un festival che ogni anno si svolge a giugno nel castello di Beseno. Qui prendono vita concerti, spettacoli dal vivo, installazioni multimediali, tra ricerca e sperimentazione continua di linguaggi innovativi che riguardano anche internet. Tutte queste creazioni ripropongono un ripensamento creativo del luogo e della storia. Quindi, metaforicamente, la collina di Beseno rappresenta il porto che accoglie e rilascia queste contaminazioni culturali. Come se il castello fosse un veliero tra i monti, un vascello luminoso nella notte che pilota le nostre suggestioni ed immaginazioni. In effetti, ho sempre pensato al castello come a un transatlantico di luce approdato per sbaglio in montagna. E voi? Oggi però vorrei parlarvi dei laboratori che svolgiamo in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Alta Valla Garina dal 2009, con il sostegno delle amministrazioni comunali di Volano, Cagliano e Besenello e grazie ai bandi memoria della Fondazione Caritro. Il primo progetto su cui vorrei soffermarmi si intitola Narrare il territorio. Vicino al ponte che porta la strada principale verso del paese. Abbiamo pensato di far incontrare bambini ed anziani affinché i più giovani imparino a conoscere e custodire le storie dei luoghi narrate dai più vecchi. Noi in classe ci presentiamo come dei veri e propri custodi di storie con la nostra valigia sonora, il nostro scrigno. Sto parlando di una installazione sonora a forma di valigia che ospita una cartina geografica. Alla pressione di un pulsante, la valigia racconta storie dei luoghi e fa sentire i suoni della valle. I bambini e le bambine restano sempre di stucco. Con questo semplice espediente parliamo di geografia, di memoria e di rete internet. Perché Porto Beseno è anche un portale dove sono archiviate tutte le ricerche, le produzioni, i video, le immagini, i suoni che riguardano questa valle e non soltanto. I documenti si possono rintracciare all'indirizzo www.portobeseno.it. Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, sti maestri, bravi sti ragazzi. Allora, volevo farvi vedere qua il grano turco. Vedete che lo sapete cos'è il grano turco? Sì. Sì. E con le foglie qua si facevano i materassi. Lo sapevate, no? No. Allora, erano talmente poveri che non si erano i soldi di andare a prendere il materassi. Si facevano queste foglie, si prendevano fuori le più belle, bianche, pulite, perché, caspita, ci sono anche delle sporche. Però allora non c'erano insetti dentro, erano belle, sane, pulite. Si capisce che tenevano anche caldo, perché si dormiva bene, insomma. Allora, era tutto contadini, sapete, qua alla campagna c'erano poche viti. Erano tutto terreno da semine, frumento, grano. Venivano veniva alla macchina da battere questo frumento e tutti i contadini col carro andavano a portare questi fasci di frumento e c'era una polvere. La vostra scuola era tutta piena di polvere perché questa macchina faceva polvere. E dopo i contadini prendevano il suo frumento e lo portavano al mulino e dal mulino davano la farina e si faceva la polenta. E a colazione non c'erano le brioche, sapete, no? O le spremute o questo quello, no? C'era polenta e latte e le croste del paiolo, anche nere. Ma io non le mangiavo perché non mi piacevano, andavo sempre senza colazione a scuola. Non c'era pane, pensate che venivano da Cagliano, con la gerla, con un po' di pane per tutto il paese. Pensate voi quanti che potevano comprare il pane? Non potevano perché non avevano i soldi, sì. Allora c'era il bacco da seta, c'erano un mucchio di gelsi nei campi, ma tutti avevano le piante, ma tante ce n'erano. I primi soldi che prendevano era col bacco da seta, che si chiamava Cavalieri. Sapevate cos'è il bacco da seta? Sì. Sì, e noi bambini aiutarli, insomma, tanti lavoretti facevamo noi, dovevamo andare al caseificio con latte la mattina e la sera, poi ci mandavano a funzione, non c'era da dire di no, bisognava andare a funzione. Sapete dov'è il caseificio? Che c'era una volta dove c'erano gli anziani via, o la casa di Alpini, lo sapevate? Sì. Era là sul caseificio, era un po' distante, insomma, è l'inverno, c'era un mucchio di ghiaccio, si doveva andare ogni tanto, si rovesciava anche il secchio. Allora si veniva a casa e si prendeva anche le botte dai genitori, perché avevamo rovesciato il latte. Avete capito? Non come voi che siete a casa tutti tranquilli a digiuno. Insomma, così era la vita. Nel bel cortile della signora Romana abbiamo ascoltato i ricordi della sua infanzia. Ora invece vi condurrò in un particolare viaggio alla scoperta dell'acqua di Besenello. Ascolteremo storie di fontane e di vita attorno all'acqua, addentrandoci fin dentro la montagna, là dove nasce la sorgente. Cosa mi racconti? Dovete immaginare come era negli anni 60, senza l'acqua in casa. L'acqua in casa è un qualcosa di un bene veramente eccezionale. Io abitavo nella seconda strada a sinistra, la Stradella, ed eravamo la famiglia nel paese più lontana in assoluto a piedi dalla fontana. Perciò io da ragazzino come voi, la mattina, il pomeriggio e la sera... Era più lontana ancora quella su in cima, quella su Aldos. E eravamo in salita a portare i secchi pieni. Fosse stato viceversa, sarebbe stato più comodo. Qui arrivavano tutti coi secchi, la gerla, e qui tutti attingevano l'acqua per portare in casa. In casa, sopra al lavandino, c'era una mensola dove appendevano i secchi pieni di acqua. Oggi come oggi abbiamo un consumo di acqua eccezionale, quasi spropositato, mentre 50 anni fa, praticamente con 20 litri di acqua al giorno, uno viveva. Adesso ce ne vogliono 140-150. Qui la sera, sull'imbrunire, arrivavano i contadini, perché era solo le case, c'erano solo le bestie, le mucche, le capre, i cavalli, e la sera prendevano queste bestie e le portavano tutte a far la beverata. E vedevi la fila di mucche che arrivavano ad abbeverarsi dall'acqua fresca della fontana. Oltre, la mattina era classico vedere tutte ste donne con i grumbialoni lunghi, mettersi a lavare i panni sulla pietra inclinata, no? Qui la fontana era sempre molto praticata. Vedete come è cambiata anche la piazza? Avete con la vostra immaginazione pensato come era la realtà qui della fontana principale di Besenello, centro storico del paese. Questa è la fontana degli Anzelini, chiamata, no? Abbiamo visto la fontana che non c'è più, che era la fontana del centro storico di Besenello. Poi siamo andati alla fontana degli Anzelini, scusa, dei Struffi. Adesso siamo alla fontana degli Anzelini. Questa è una fontana leggermente più piccola di quello che era l'ingombro che vi ho disegnato per terra, però altrettanto una fontana. Qualcuno lega quella data lì sopra. 1848. E tutte queste famiglie una volta si usavano solo quest'acqua, non era come voi che avete il bagno, avete la lavatrice. Qua si usava solo quest'acqua per far da mangiare, per lavare, per le bestie. E questo è il secchio che usavano a venire a prendere l'acqua. La portavano alle varie famiglie. Questa è la nostra gente che nasce qua vicino, qua neanche a 100 metri. E una volta arrivava addirittura nei tubi di pietra. Sono tutti forati, uno si incastrava in l'altro e portava l'acqua. Perciò partiva proprio naturale, arrivava anche naturale. Ciao, ciao, ciao. Adesso le tre signore vi fanno vedere come si lavava. E sai voi tipo telotti perché le fontane le divideste in tre? Perché hanno fonte diverse? No, è tutta una fonte. Bravi. Ecco, bravi, sì. Perché qui è sempre pulita per bere le mucche o risciacquare la biancheria. Questa è quelle delle robe più belle e là per le robe più sporche. E sai perché una volta la madilla, una vecchiotta che l'aveva 80 anni, il fan can capitele in dove c'è una fontana? E sai perché? Perché l'acqua è un bene. Sì, è il capitello. Per pregare? Bravo. Ah, bravo, sì. Quando è che non altri putelotti come voi altri venivano in chive a fare il filò, rideve, ne cercheve il moros. Ma pregheve! Vedete? Ecco, guardate quanto è limpida quest'acqua. Tutte le fontane di Besenello hanno grosso modo una sorgente con l'acqua così limpida. I laboratori di Porto Beseno torneranno nella prossima puntata. Stessa ora, stessa rete. Un saluto da Sara Maino e Stefano Uccia in regia. Avete ascoltato Paesaggi da ascoltare, voci, suoni e storie dalle terre trentine. Un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Sara Maino.